Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Mariddì ai microfoni, vi dà il benvenuto e vi augura un'ottima serata in nostra compagnia. È una serata molto speciale perché ritorna uno di quei temi a noi così cari, che è il tema del viaggio. Questa volta è un viaggio un po' particolare perché si snoda tra più regioni ed immaginate fatto a piedi tra una regione all'altra. A parlarcene un giovanissimo autore, Alcide Pierantozzi, che non è però, sebbene giovanissimo, ai suoi esordi, perché ha già scritto varie cose, come per esempio Uno indiviso, edito da Acca nel 2006, pensate era giovanissimo, aveva 21 anni all'epoca, apprezzato da intellettuali dal calibro di Emanuele Severino, Ermanno Olmi e Aldo Grasso. Corizzoli ha pubblicato i romanzi L'uomo e il suo amore e Ivan il Terribile. Nel 2012 ha partecipato, accanto a Barack Obama, Hillary Clinton e David Sedaris, all'antologia Le cose cambiano con ISBN Corriere della Sera, progetto contro il bullismo e l'omofobia. Inoltre, orecchie, udite e udite, è l'unico scrittore europeo scelto da De Juvenilia, rivista letteraria di San Francisco, a cura degli editor di Max Veins. Scrive su Rolling Stones e sul Corriere della Sera e pensate che nel 2014 è stato scelto da Audi per il progetto Innovators. Attualmente sta scrivendo sceneggiature per il cinema. Prima di passare all'intervista telefonica con Alcide, vi ricordo velocemente che il prossimo 26 aprile, quindi tra qualche giorno, questa domenica, per quanti non partano già per il lungo weekend del 1º maggio, Enrico Brignano sarà qui a Bruxelles, probabilmente per la prima volta, se i miei ricordi sono corretti, in uno show molto, o comunque che si annuncia molto simpatico, che è solo italiano, ma non è colpa mia. Quindi, per quanti non avessero ancora un'idea su cosa fare, vi invitiamo a vedere questo spettacolo di Enrico. Invece, poi c'è un altro spettacolo che avrà luogo alla tua Sandor, che è Ciao Ciao Bambino, che è per l'appunto la storia, una storia dedicata all'immigrazione italiana, che si svolgerà invece a partire da domani sera, il 22 aprile, e per tutta la settimana. Tutte le informazioni, i dettagli e quant'altro saranno disponibili sul nostro sito www.radioalma.eu/brussellando. Dani M scalpita dall'altro lato del vetro, quindi vuol dire che l'ospite è in diretta telefonica. Cari amiche e cari amici, bentrovati. Eccoci qui dopo i primi suggerimenti dell'agenda culturale di Bruxelles per la settimana. E come vi annunciavo, sono particolarmente felice perché sapete che ci tengo agli autori, soprattutto quelli giovani, soprattutto quelli che a Bruxelles non sono tanto conosciuti, questo poi è l'obiettivo anche di Bruxellando. E questa sera sono contenta per due motivi. Uno, perché l'autore è veramente giovane, questo dovete credermi. Due, perché è la sua prima intervista su questa sua ultima fatica letteraria, che, badate bene, parla anche del viaggio, e quindi per tutti i nostri amici affezionati sapete bene che il viaggio è anche il fil rouge di Bruxellando. Quindi sono oltremodo contenta di avere in diretta telefonica dall'Italia Alcide Pierantozzi, autore di Tutte le strade portano a noi, a piedi da Milano a Bari, edito dalla Terza. Alcide, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Allora, Alcide, abbiamo fatto una bella chiacchierata prima, insomma, di avviare la nostra trasmissione questa sera, però c'è qualcosa che ancora non ti ho chiesto, quindi mi è rimasta una curiosità prima di affrontare i temi di cui parli in questo tuo scritto. Come nasce la tua passione per la scrittura? Nasce in maniera del tutto imprevedibile e improvvisata, cioè a 19 anni io studiavo al primo anno di università di filosofia a Milano e una sera sono tornato a casa, ricordo, viaggiavo su un pullman, la 73 che mi portava in Viale Corsica a casa a Milano e vedendo il riflesso di un signore contro il vetro mi è venuta in mente la storia di questi due gemelli, ho visto il riflesso doppio, sono tornato a casa e ho cominciato a scrivere e prima non avevo mai scritto niente di narrativa, avevo scritto qualche poesia, ma la scrittura non era, diciamo, una cosa che avevo previsto, anche se mi interessava tanto il cinema, ma più dal punto di vista registico. Perciò è stato improvviso, anche se poi c'è un precedente, perché quando ero piccolo mia madre a un certo punto comprò, riempì la mia cameretta di mensole, tantissime mensole, diciamo prevedendo che si sarebbero riempite di libri, e così è stato poi, perché anche se fino ai 18 anni i libri non mi interessavano, infatti a scuola ero l'ultimo della classe, ho fatto 3 volte, e poi ho recuperato gli anni per andare via all'università presto, e quindi questo pronostico di mia madre poi si è avverato. Però c'è qualcun altro pure che ti ha un po' influenzato, probabilmente anche magari nella vivacità dei racconti, o meglio della tua scrittura. Beh, mi hanno influenzato dal punto di vista emotivo i miei nonni con cui sono cresciuto, che sono molto presenti in questo libro, ad esempio, perché poi, cioè, questo libro è stato un'occasione, essendo un reportage particolare, perché io racconto questo viaggio a piedi da Milano a Bari che ho fatto l'anno scorso. È anche il pretesto per parlare dell'Abruzzo, che è la terra da cui vengo, e dei nonni con cui sono principalmente cresciuto e che adesso non ci sono più, che sono mancati da poco. Quindi poi il mio obiettivo era anche in un certo senso omaggiarli, anche perché l'idea poi nasce da mio nonno, che raccontava sempre di essere tornato dalla Jugoslavia a piedi dopo la guerra, facendo 21 km al giorno di corsa, perché voleva tornare, si era fatto un calcolo di domenica ed era partito credo il martedì, quindi voleva arrivare non la domenica successiva, ma quella dopo ancora, per incontrare nella chiesa di San Cipriano, della chiesa di Colonnello, il mio paesino in Abruzzo, mia nonna, che aveva visto solo una volta e di cui era innamorato, sapeva che l'avrebbe visto solo in chiesa. Allora io mi sono detto, ma se l'ha fatti lui 21 km senza scarpe, scalzo, dopo la guerra, ancora più piccolo di me, che aveva 20 anni, forse posso farcela anch'io con tutta una serie di supporti. Poi in realtà non è stato così, perché io sì, ce l'ho fatta, sono arrivato alla fine, ma in condizioni pietose. E allora parliamo di questo tuo viaggio, no? Che magari è stato anche, se vuoi, supportato dalla nonna invece, perché c'è una frase che ricorre molto spesso e tu dici, e cammina, sì. Tua nonna lo diceva molto spesso, quindi... Che a Milano si dice anche, in altre zone d'Italia si dice anche pedala, ma pedala, per dire da me si diceva sempre ma cammina, è un'espressione che mia nonna usava ogni volta che dicevo qualcosa su cui non era particolarmente d'accordo. Poi, come si vede nel libro, spesso le cose sulle quali non eravamo d'accordo erano quanto di più improbabile per una figura genitoriale o comunque come quella di una nonna. Ad esempio, io leggevo dei libri, leggevo King, leggevo dei romanzi, anche se ne leggevo pochi come leggevo prima, però mia nonna subito mi redarguiva dicendo, ma cosa fai, perdi tempo, queste stupidaggini, libri, ma cammina. Pure mia nonna si imbestialiva quando portava a casa tanti libri dicendo che spendevo soldi per delle stupidaggini. Loro erano i contadini, quindi non avevano un senso della vita diametralmente opposto rispetto a quello che poi hanno, ad esempio, i miei amici qui a Milano o anche i nonni dei miei amici qui a Milano. È una vita un po' diversa, però penso anche che questo viaggio mi abbia fatto capire che non hanno avuto tutti i torti sotto molti aspetti, anche perché poi le persone che si occupano di libri, di cultura, certo sanno cose anche straordinarie rispetto agli altri, ma sembra quasi a volte che non abbiano capito le cose essenziali, no? Beh, sai, il mondo... rispetto le cose che per un abruzzese poi sono alla base di tutto, e quindi questo spero che mia nonna mi abbiano insegnato. Ma sai, ci sono cose che si possono imparare soltanto quando si è vissuti, almeno per un periodo, in una zona, se vuoi, rurale, quindi non sono forse facilmente condivisibili con coloro che vivono nelle zone urbane, mettiamola così. E poi, come dicevi tu prima, i ritmi, quelli che ti dà poi l'agricoltura o la terra stessa, sono sicuramente diversi da quelli frenetici, artificiali anche della città. Ma veniamo invece al tema principale, quello del tuo libro, che è questo viaggio che tu hai svolto in compagnia di altre persone per 45 giorni. Allora, Se tu sei d'accordo, vorrei che tu spiegassi ai nostri amici all'ascolto come è nata questa idea e come poi questo progetto ha preso vita nel tempo. L'idea è nata davvero all'improvviso, ma tutte le mie idee nascono all'improvviso, tanto è vero che poi rileggendo il libro adesso, quindi dopo aver fatto il viaggio, dopo aver scritto il libro e dopo che il libro è uscito, quindi anche dopo le bozze, rileggendo io ho detto ma veramente ho fatto sta cosa, cioè davvero io a un certo punto sono sceso di casa a Milano e ho fatto l'Italia a piedi, sì, nel senso che l'anno scorso era... Sì, guarda, noi siamo partiti a maggio, il 21 maggio, fino alla fine di marzo io non avevo neanche la minima idea di poter fare una cosa simile, stavo pensando di scrivere il mio nuovo romanzo, un thriller, quindi un'altra cosa. A un certo punto, parlando con gli editori, con la Terza, e quindi pensando di fare un reportaggio di qualche tipo, ad esempio su luoghi molto affini al mio vissuto, come potevano essere l'Abruzzo, le Marche, e magari farli a piedi per indagare alcune cose, mi sono detto ma perché non fare tutta l'Italia a piedi? Questo secondo me è anche in un certo senso provvidenziale della mia ingenuità, cioè alla fine come un bambino dico vabbè, ma io posso farcela. Allora l'idea è stata approvata dall'editore, a quel punto mi sono ritrovato a dover fare la cosa davvero, quindi cosa ho fatto? Ho chiamato alcune persone che secondo me erano molto adatte a diciamo, indagare vari aspetti del territorio, perché io nel libro indago un aspetto emotivo, indago anche la questione dei confini da un territorio all'altro, di come l'Italia cambia, di come appunto ci sia una demarcazione non proprio definita tra nord e sud, come invece si pensa, tutta una serie di cose che naturalmente possono interessare a uno scrittore oltre all'aspetto goliardico. Poi però avevo bisogno di qualcuno, ad esempio, che sapesse trafficare con i social network, con la rete, per essere sempre connessi, quindi ho chiamato questo mio amico Andrea De Spirz, che ha fondato un social network che si chiama Job Your Life, che cosa fa? Diciamo mette in contatto le aziende direttamente con gli iscritti che lasciano il loro curriculum, quindi è un procedimento inverso anche a LinkedIn e ad altri social network. Perciò lui ha fatto un'indagine sul lavoro, poi ho chiamato una mia amica Elena Dalmolin, esperta della via Francigena, che è la via che noi abbiamo fatto perché l'aveva già fatta, quindi io da solo non sarei mai stato capace di non perdermi, ad esempio. Lei era quella attenta a tutte le strade, ai monumenti, all'aspetto artistico, architettonico del territorio, finché poi a Roma ci hanno raggiunto, visto che tutto questo diventerà anche un documentario, Martina Collegata, che è un'attrice che a me piaceva molto, Brando De Sica, insomma tutta una serie di personaggi che ci hanno accompagnato lungo il percorso, oltre a tutta una serie di incontri, che ne so, a Piacenza chi c'era? C'era Nina Zilli, che io già conoscevo perché ci eravamo incontrati quando lavoravo da Rolling Stone, e allora abbiamo fatto un incontro con lei dove si è parlato di musica, abbiamo fatto incontri appunto con Brando dove si è parlato di cinema. Ogni luogo è stata l'occasione per raccontare, per vedere un'Italia diversa, che magari anche inaspettata. Poi certo l'Italia, come dire, dell'Italia io ho capito molte cose che non sospettavo minimamente, cose belle ma anche cose brutte. Ho visto variare il senso dell'accoglienza, è un luogo comune che si dice che al nord siano meno accoglienti che al sud, in realtà è un dato di fatto evidente, è proprio così. Fino a, però, diciamo, Pietra, toglimi una curiosità, Alcide, scusami, toglimi una curiosità, ma se... che cosa ti ha colpito di più? Che cos'è che veramente determina questa differenza nell'accoglienza? Raccontami solo un dettaglio per descrivermi questa differenza. Mi hanno colpito molto. Innanzitutto fino in tutta la zona della Lombardia, diciamo fino alla Toscana, la critica più feroce che viene rivolta a chi cammina e chi quindi fa un viaggio come il nostro, nonostante stessimo lavorando, perché io stavo scrivendo un libro, gli altri stavano facendo indagini di altro tipo, è che tutti dicono ma sì vabbè non avete niente da fare, non lavorate, altrimenti stareste a casa, non hai un mese e mezzo da perdere per andare in giro in Italia. Quindi questa è la prima cosa che mi ha colpito, cioè nessun senso di stupore rispetto a quella che era un'armata brancaleone fatta da alcuni ragazzi Dici. Questa è la prima cosa che mi ha stupito. La seconda cosa che mi ha stupito è invece come, quindi ripeto, l'accoglienza sicuramente è più forte al sud, dove noi avevamo bisogno di acqua, ad esempio, perché avevamo delle scorte dietro, ma facendo i percorsi della Francigena per molte zone magari non ci sono bar, e a nord sono molto diffidenti a offrire da bere anche un semplice bicchiere d'acqua, a volte ci siamo visti rifiutare l'acqua. Erano gli immigrati che lavoravano nei campi che prendevano il motorino e andavano a prenderci l'acqua e ce la portavano. Quindi questo cambia nettamente, perché poi quando si arriva in Toscana, poi nella zona di Viterbo a Roma, lì addirittura ti invitano a dormire a casa loro e ti cucinano, quindi cambia tutto. L'altra cosa che mi ha molto colpito, ad esempio in alcune zone del nord io ho mangiato meglio che al sud, questa è una cosa che non mi aspettavo. Tipo la zona di Piacenza è uno dei posti in cui c'era anche Manganelli, che a Piacenza è sì. Benissimo, però ho mangiato benissimo, quindi tante cose. E questo cambia poi, sai, alle volte poi insomma magari cambia anche dalle famiglie, no? Che si visitano, quindi insomma questi sono elementi interessanti. Quindi dicevi una cosa prima, per l'appunto parlavi della diversità dei luoghi, eppure nel tuo romanzo ci sono anche i non luoghi. Certo, non luoghi, sicuramente ci sono tante zone anche, come dire, morte del territorio, no? Strade deserte, carreggiate dove non c'è nulla, perché poi la cosa, ecco, prima tu mi chiedevi che cosa ti ha veramente colpito e adesso mi chiedi dei non luoghi, ma in realtà se io dovessi dire una cosa molto provocatoria, ma che non lo è, l'ho detto anche alla presentazione l'altro giorno, è che quello che abbiamo capito un po' tutti facendo l'Italia a piedi, quindi vedendo anche, diciamo, le varie commissure tra un territorio all'altro, posti dove non si passerebbe mai, è che l'Italia è anche un paese meraviglioso, ma è anche per molti aspetti un paese molto brutto. Ci sono zone anche brutte, che non dirò per non offendere nessuno. Questa è una cosa che dà subito all'occhio quando si va a piedi. Ora non dico che i non luoghi siano brutti, perché poi hanno un senso letterario fortissimo, ma hanno un senso letterario forte perché poi chi scrive li trasforma mettendoci in mezzo i personaggi. Quindi certo. Questi non luoghi erano anche un po' fondamentali per me. Poi ci sono non luoghi di altro tipo, che sono quelli che appartengono ai ricordi e quindi a tutto il vissuto che io richiamo. Allora ci sono due cose ancora che volevo chiarire sui luoghi, no? Perché tu parti proprio all'inizio da questo tuo ricordo, probabilmente anche reale, dell'Italia in miniatura, che visiti con la tua famiglia in un certo momento all'inizio. Quanto secondo te in quell'immaginario collettivo, quindi magari qui possiamo mettere insieme i luoghi e i non luoghi, restano poi nella mente delle persone? Quanto quella mappa che probabilmente tantissimi italiani di quel luogo, cioè che per l'appunto l'Italia in miniatura, quanto secondo te resta nella memoria e quanto invece poi così non è? Nella memoria chi non è stato, diciamo, all'Italia in miniatura, in gita scolastica o con la famiglia o anche in altre zone dove ci sono diciamo riproduzioni in scala di alcuni territori, che è una cosa molto inquietante. Mi ricordo questo episodio di andare all'Italia in miniatura da piccolo, tra l'altro dopo un evento apparentemente tragico, perché eravamo andati ad accompagnare mia madre a Bologna per una visita medica seria che poi si è rivelata non essere niente di grave, non ha rivelato niente di grave, quindi per festeggiare siamo andati all'Italia in miniatura. Mia nonna, figurati, non è mai uscita dall'Abruzzo, eravamo lì, camminavamo sopra questa piccola Venezia, questa piccola Milano, e quello è stato il viaggio in cui, diciamo, mia nonna ha visto probabilmente l'Italia per la prima volta, no? Certo. È più per certe persone che non l'hanno mai vista, che non hanno potuto vederla, che questi territori restano radicati nella memoria, più che per me. Io ormai l'Italia l'ho girata tutta presentando i libri qua e là, è stata forse la più grande fortuna di fare questo lavoro, però molte persone non si sono mai spostate. Io ricorderò per sempre, avevo uno zio che molto vecchio e con accompagnarono per non so che cosa a Pescara. Ora, io abito in Abruzzo, confine con le Marche, no? Quindi stiamo parlando di non so quanti chilometri, saranno 100 chilometri, ma neanche, no, di meno, 80-90 chilometri. E quando mio zio arrivò a Pescara, esclamò: mamma mia, in dialetto abruzzese, quanto è grosso il mondo, come grande il mondo. Che aveva visto Pescara dall'Abruzzo, dal nord dell'Abruzzo. E quello è un po' diciamo, il sistema in cui si vive in certi territori. Tra l'altro, guarda, tempo fa vedevo un documentario proprio sul viaggio, e c'era un commento molto bello del giornalista, e diceva: ormai tanti di noi siamo abituati a viaggiare in aereo, e perdiamo quella che è la dimensione del viaggio, perché arriviamo direttamente, partiamo dal nostro luogo per arrivare poi al luogo di villeggiatura. Se solo cambiassimo mezzo di viaggio, per esempio prendessimo già un autobus o un treno, ci renderemmo soprattutto conto di come varia il paesaggio. Secondariamente di come variano magari, lì eravamo in un contesto europeo, quindi si cambiava, si andava da una lingua all'altra, ma giustamente, come sottolineavi tu, in Italia poi c'è anche la varietà di dialetti, che ancora sono vivi. Immaginati a piedi. Ma ecco, poi per l'appunto la cosa che mi ha particolarmente colpito proprio di questo tuo racconto è proprio la dimensione del camminare, sai, quindi la lentezza, cioè di scoprire anche la bellezza. Però ti dico una cosa, perché anche qua si pensa, no, che andando in macchina, naturalmente si arriva prima, e quindi si immagina che andare a piedi sia qualcosa di impossibile, no? Per esempio, io adesso sto a Milano, l'idea di dover andare, ad esempio, a Piacenza a piedi o a Varese a piedi stasera sarebbe terrificante per qualsiasi milanese, no? Anche per gli sportivi. Ma in realtà poi non è così, cioè si fa molto prima di quello che si pensa, molto molto prima di quello che si pensa. Cioè andare a piedi, certo ci metti di più, vedi alcune cose, ma sarà che c'è una carica proprio nell'avvicinarsi alla meta? Sarà che i piedi in realtà vanno molto più veloci di quanto si pensa? In realtà non è una cosa, c'è una fatica fisica i primi 2 o 3 giorni, poi quando ti abitui vai. Certo. E si arriva anche abbastanza presto, no? Poi certo, la questione dei dialetti che cambiano, quella è forse la cosa più affascinante. Assolutamente. Senti, c'è un'altra curiosità, perché tu dici, si legge almeno nel comunicato che mi hanno inviato, che hai compiuto questo viaggio con la prospettiva di imparare ad essere straniero in casa propria. Allora me la devi spiegare, perché ho fatto un po' fatica. Beh, questa è una cosa che è un po' difficile da capire se non si fa, no, un'esperienza simile. A un certo punto tutti ti considerano un pellegrino, uno straniero, soprattutto passando lungo quella strada che la Francigena e che molti fanno per ragioni religiose. Perciò vedi, mi hai deviato, perché invece ero convinta che proprio su questa Francigena italiani non ce ne fossero. No, ce ne sono pochi, ma ci sono. Ma la questione dello straniero, ritorno alla risposta di prima, no? Cosa fai? Perché non lavori? Perché viaggi? Cioè è il gesto del cammino che è visto come un gesto foresto. Ho capito, ora ho capito. Sano. E quindi a un certo punto ti senti davvero come uno che è fuori dal mondo, perché comunque tu stai camminando secondo un tuo tempo, una tua ritualità. La cosa più soggettiva, sai qual è? Che camminando a un certo punto tu arrivi, che hai camminato per 15-20 giorni, stai facendo un'impresa di questo tipo, e ti dici dentro: ma io perché devo fermarmi? Io potrei andare avanti così tutta la vita. Cioè, certo. Per quale motivo devo tornare alla vita di prima? E siccome gli altri ti vedono dalla vita di prima, tu sei uno straniero. Ora ho capito perfettamente. No, è stato il luogo, diciamo, il luogo principale, la Francigena, che mi aveva un po' deviato nell'interpretazione, ma ti capisco perfettamente. Invece qui a La Francigena a un certo punto l'abbiamo anche abbandonata al sud, perché non era più possibile seguirla, i sentieri erano meno tracciati, quindi lo scopo era quello di fare l'Italia a piedi. Poi naturalmente non puoi passare lungo le autostrade, certo, pericolose, quindi per... Allora, purtroppo, Alcide, come sai, il tempo in radio è tiranno, ma abbiamo ancora qualche minuto per un paio di domande. Abbiamo parlato dei luoghi, ma sono anche tante le persone che tu hai incontrato e che descrivi in questo tuo scritto. Magari accennaci solo qualche sensazione, qualche sentimento rispetto magari al ricordo che conservi ancora oggi. Beh, ho incontrato tantissime persone, una persona che mi ha colpito molto, questo signore che veniva dalla Francia lui, e che lasciava in giro lungo la strada pagine che svolazzavano da Don Chisciotte, il libro di Cervantes, perché aveva un piccolo carico, anche con le lenzuola dietro, per chi dorme negli ostelli, noi avevamo i bagagli in macchina, ma chi dorme negli ostelli deve portarsi dietro anche coperte e lenzuola, e lui buttava via queste pagine leggendo mano a mano, perché altrimenti il libro avrebbe pesato troppo. E quindi questo mi ha molto molto colpito, perché per tutto il viaggio che noi abbiamo fatto ogni tanto trovavamo queste pagine di Don Chisciotte, che tra l'altro è perfettamente in linea, visto che a un certo punto i mulini a vento appaiono da tutte le parti camminando, perché ci si estranea. Poi mi hanno molto colpito dei ragazzi di 15-16 anni, un gruppo di ragazzi che abbiamo incontrato a Giovinazzo vicino a Bari e che erano entusiasti quando siamo arrivati con questa macchina, era appena scoppiata l'estate perché era all'inizio di giugno, nel sono giugno, erano tutti lì e ci festeggiavano con questo nostro amico fakiro che sputava il fuoco, facevano domande, ma Milano com'è? Ma questa giacca è firmata? Ma l'amica tua quanti anni ha? Ma ci sta con me? C'è questo senso della vita fortissimo che è arrivato all'improvviso proprio sul finale a Bari. Poi tante persone, tanti contadini, noi abbiamo fatto appunto delle soste anche, siamo andati nei campi confiscati alla mafia, in zone affiliate a Libera Antimafia, quindi anche nel Napoletano, una tratta che abbiamo raggiunto quella in macchina, perché non era lungo il percorso, per poi tornare indietro e ripartire da dove avevamo mollato, quindi senza saltare nessuna tappa. Insomma, ne abbiamo fatti tanti di incontri. Questo veramente è probabilmente la cosa più bella del viaggio, no? Perché malgrado tu sappia dove intendi arrivare, poi non sai mai esattamente come ci arriverai, con quali emozioni e quali poi possano essere gli imprevisti. Allora, Alcide, dicevi una cosa molto bella, no? Quindi di questo fatto di imparare ad essere straniero nel proprio paese. Un suggerimento, un consiglio a chi magari volesse semplicemente almeno provare la sfida del cammino, qualunque esso sia, non necessariamente così lungo come una tratta, come la tratta di cui tu parli, che va da Milano a Bari, però immaginando anche sentieri più brevi. Certo, io consiglio di farlo, non è, io non consiglio di farlo da soli, non credo nel viaggio iniziatico, che serve a riflettere, che serve a stare da soli con se stessi, perché la natura poi di base è una grande costruzione intellettuale, di questo te ne accorgi subito, che non esiste quella natura selvaggia, che se esiste fa paura e nasconde molti insidi, quindi un viaggio del genere ha senso se si fa con degli amici, perché lì tutto diventa speciale. Infatti il mio libro poi è un inno all'amicizia di base, anche se ci siamo odiati, anche se non abbiamo fatto altro che litigare dall'inizio alla fine. Quindi io consiglio di farlo insieme, della fatica fisica ancora non si sente, si sente prima di 2 o 3 giorni, basta che uno si prepara un attimo, fa un po' di footing, di palestra e poi si va, tanto l'importante è portarsi dietro tanta acqua, partire già idratati al massimo Certo. e farlo soprattutto in un periodo dell'anno, e questa è la cosa fondamentale, che non sia né il pieno inverno né la piena estate. Assolutamente, Quindi io consiglio assolutamente. primavera, maggio, giugno, insomma. Alcide, ahimè, il tempo veramente scorre via, veramente velocemente, ma c'è qualcosa che, siamo in conclusione, ahimè, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti aggiungere ai microfoni di Radio Alma, brussellando? Ma in realtà ci siamo detti tutto, quindi non so cosa posso dire, Beh, che tutte le strade portano a noi. esatto, che tutte le strade portano a noi, ecco questo voglio dire, che questo libro l'ho scritto io, ma è come se l'avessero scritto tutti, insomma, non è una cosa mia, fin dall'inizio io non ho voluto che questo fosse un mio progetto, ma che fosse un progetto collettivo di tutti, per questo poi il titolo a cui tutte le strade portano a noi. Da solo sicuramente non avrei fatto nulla, non sarei arrivata neanche a Cologno Monzese. Alcide, noi ti ringraziamo. Quindi il libro è fresco di stampa, è uscito soltanto un paio di settimane fa, quindi lo scorso 2 aprile. Vi ricordo quindi Tutte le strade portano a noi, a piedi da Milano a Bari, editori La Terza, che salutiamo, e mi raccomando agli amici di Bruxelles, memorizzate questo nome, Alcide Pierantozzi. Alcide, ti ringraziamo. Ciao a tutti, grazie a voi. E continua magari a farci sapere delle tue avventure a piedi oppure non. Grazie. Ciao. Ciao. Cari amiche, cari amici, ed eccoci a conclusione di questa bella intervista con Alcide Pierantozzi. Lo annunciavo in apertura, Ciao Ciao Bambino, questa pièce teatrale che riguarda per l'appunto una storia dell'emigrazione italiana qui in Belgio. Comincia domani sera alle 20.30 al Teatro della Toison d'Or e proseguirà fino al prossimo 30 maggio, dal mercoledì al sabato alle 20.30. Se volete saperne di più, il sito è www.ttoteatre@francese.com. Probabilmente avremo modo di parlarne in una delle prossime settimane di Brussellando, ma per gli amanti delle anteprime, se volete, domani sera, insomma, è l'occasione migliore per assaporare questa pièce squisitamente italo-belge, come direbbe qualcuno. Marie D vi ringrazia, vi augura un'ottima serata in compagnia ancora di Brussellando e con le trasmissioni di Radio Alma in particolare. Saluto Dani M in regia e vi do appuntamento per una nuova ricca puntata di Brussellando martedì prossimo, 28 aprile. Buona settimana e buona serata a tutti. Ed eccoci tornati, cari amici, in studio con il nostro Brussellando, la parte quella che viene dopo. Sono sempre imbarazzato, ancora non so come definirla, eppure un bel po' di tempo che c'è questo Brussellando dopo. Imbarazzo. Poi quando avremo qualche buona idea ve lo faremo sapere. Quindi insomma ce lo teniamo, questo Brussellando dopo, post parte 2. Chi lo sa, troveremo una definizione. Però insomma, ben tornati in studio, siamo... prego. All'indefinibile. Brussellando not defined. Anche questa potrebbe essere una cosa interessante, ma insomma io sono così. Ho questa sera un'aria, ve lo confesso, forse si sente anche un po' sognante. Ed è sognante perché, siamo in piena estate, signori. Siamo in piena estate, siamo a Bruxelles, George, ed è piena estate. George, se domani piove sappiamo di chi è la colpa. No, anche se piovesse domani sarebbe comunque un acquazzone, insomma, è incredibile. Abbiamo avuto, credo, 15 giorni di fila. 15 giorni di fila di sole, è una cosa sconvolgente, io sono estremamente felice, mi sono riconciliato con Bruxelles, mi sono riconciliato col Belgio. Insomma, sto vivendo una specie di così un momento felice con questo caldo, queste... Potere del sole, ragazzi. Assolutamente sì, io sono convinto che bisognerebbe spostare la gente e dire: ragazzi, almeno 2 mesi di sole vedete a fare, andate a lavorare al sole. Perché il sole scalda, il sole luce, il sole vita, insomma, il sole quando c'è e rimane per un po' di tempo, insomma, uno si abitua, ma sente la forza, la differenza, insomma. Sente che c'è qualcosa. Mi viene in mente immediatamente una cosa cattiva. Dica. Una cosa cattiva sul cambiamento climatico. Prego. Allora, ovviamente, come conseguenza del cambiamento climatico, questa zona, anzi tutte le zone del mondo, per dire il vero, dovrebbero avere sempre dei picchi di calore durante il periodo di estate, invece... e anche degli acquazzoni, quindi, perché col calore è combinato con una maggiore umidità. Sì. E fondamentalmente quello che si aspetta è che se riusciamo a mantenerlo fino a 2 gradi, allora sì, ci saranno questi cambiamenti e questi fenomeni si stabilizzeranno in un certo senso e ci abitueremo, diciamo. Ma nel caso se si va oltre, allora, per esempio, c'è abbastanza rischio che, per esempio, l'Italia e Spagna, cioè le parti sud dell'Europa, si desertifichino, mentre queste parti diventerebbero più o meno quello che era l'Italia e la Spagna. Cioè, è assurdo, ma è così. Cioè, tu mi stai dicendo che paradossalmente, senza volerlo, io sono rimasto in Italia. Tendo a rimanere in Italia. Scusatemi l'inglesismo, in una worst case scenario, sì. Io spero che non abbiamo il worst case scenario. George, preparati a l'huile d'olive de Belgique. Ah, io mi preparo a l'huile d'olive le citron de la Valonie. Le citron de la Valonie. Ah, mangez les oranges de Namur. Le famose, conosciutissime ormai in tutto il mondo, oranges de Namur. I fichi d'India d'Anversa. I fichi d'India d'Anversa mi è piaciuta molto. Purtroppo forse devo rovinarvi anche la festa. Dovrebbe essere quelli di Carlo Re, però i fichi d'India, dai, non di Anversa. È di Carlo Re, di certo. Carlo Re. I fichi d'India di Carlo Re, bellissimo. E a Liegi cosa ci mettiamo? Ma a Liegi non lo so, ci possiamo mettere il sughero di Liegi. Cosa? Il sughero di Liegi. Il sughero di Liegi non è male. Le Liege de Liege. A Mons, visto che ci sono le montagne, mettiamo, non lo so, a Mons, i cachi, i pinoli, i capperi di Mons. Bello. Sarebbe divertente da un certo sarebbe punto divertente di... Cioè, io vi voglio rovinare la festa, purtroppo, perché sicuramente, siccome la cioè la stabilità del tempo, cioè, sì, atmosferico, atmosferico, sì, non sarebbe proprio il massimo. È abbastanza dubbioso che, nonostante il generale più alto, le generali più alte temperature, comunque non ci si riesca a fare il limone e le arance. Beh, no, perché non è costante, quindi non è costante, cioè, nel senso, certo, che possono esserci dei fenomeni di gelo sufficientemente severi durante l'inverno per, sì, non consentire a questi alberi di sopravvivere. Vabbè, però non siamo per questo. Mimorette questo. Anche il mio. Mimorette, quando ero piccino, Mimorette il mio fico preferito. Povero. Mimorette. Sì, sì, Mimorette. Povero. Mimorette, il mio fico, l'albero di fichi preferito. Facevo dei fichi a goccia, neri, con la pelle sottile, che erano di una bontà infinita, e li ho ritrovati solo 4-5 anni fa, quando mio padre ha detto ho trovato ancora dei fichi, ho detto erano quelli di quando ero bambino, di quell'albero che è morto. Lui insisteva che era un altro, io invece non potevo, dico guarda che la memoria di un bambino è come quella di un elefante, cioè, lascia perdere, c'è, cioè, un bambino poi che si ricorda una cosa, è un elefante, cioè, veramente. Prego? Poi se il bambino è veramente un elefante. Poi se il bambino è veramente... Beh, non sono così grasso, dai. Ah, scherzo. Non sono però così hai il grasso. Naso sufficientemente lungo. Ho il naso proboscidoso, sì, questo è vero. Il naso proboscidoso, ma non... Le zampotte invece no. Nelle zampotte nel resto del corpo. Cioè, diciamo che ho dell'elefante, ho la panza. Dai, le e zampotte il naso ce le ho io. Le zampotte ce le tu, io ho la panza e il naso. Quindi l'intero Bruxellando insieme... Fa un elefante. Qualcuno ci deve mettere le orecchie, chi ce le mette? Benvenuti allo zoo, ragazzi. Ma insomma, siamo felici, questo sole ci rende felici, non c'è niente da fare. Un po' di tempo fa abbiamo regalato il TG di Bruxellando, e invece adesso cosa vi regaliamo? Non lo so. Beh, intanto posso dirlo? Di qualcosa. No, niente, proviamo a futuro. Abbiamo in mente qualcosa. Dillo. E vi diamo solo un indizio. Non sappiamo, insomma, in quale trasmissione lo faremo, ma insomma, fra un po' lo faremo. E l'indizio è questo. Facile a moina. E voilà. E chi l'ha capito, l'ha capito. E la mia sigla? Vuoi la sigla? Quindi sì, dovremmo passare già alla seconda fase della seconda parte di Bruxellando. Se hai voglia. È la fase al quadrato. Oh, questa mi piace. Un applauso regista, siamo alla fase al quadrato, fase esponenziale di Bruxellando. Ah, bellissimo. Siamo alla fase esponenziale di Bruxellando, so che vi manca perché per un po' di tempo non c'è stato, e quindi so che le vostre orecchie e la vostra sete urlano. La sete urla? Le orecchie urlano? Sì, certo. In letteratura qualsiasi cosa. Perfetto. Allora, le orecchie e la sete urlano che vogliono tornare indietro, vogliono la loro parte, vogliono essere dissetate oppure riempite di bei suoni, e quindi non mi resta che lasciare la voce, lasciare il microfono, la voce bellissima di Fiordaliso con Librangolo. Oh, grazie. Adesso sono in imbarazzo. Quindi, effettivamente, non abbiamo fatto Librango da un sacco di tempo, ma anche perché avevo trovato dei temi e delle possibilità che ci hanno eccitati. E quindi, però adesso torniamo alle vecchie abitudini e stasera parliamo di Ian McEwan. Che non sono sicuro. Ian McEwan mi sembra di conoscere già. Ti sembra bene, cioè un sacco di gente conosce Ian McEwan, cioè lui comunque secondo me è uno di quei nomi della letteratura contemporanea che ce la faranno a mantenersi nell'aria diradata della si chiama Ian letteratura. McEwan. Ian McEwan. Secondo me Ian. Ian McEwan. Secondo me sì. Questo da verificarlo. Da verificarlo. Comunque è uno scrittore abile. Abile non soltanto sì. nel maneggiare la sua lingua, che è l'inglese, ma anche abile nel trovare dei temi che sono attuali, fanno riflettere sulla società o sulle relazioni fra le persone in modo originale e che non sono ripetitive, che sono sempre delle angolazioni nuove, a volte anche sorprendenti. Cioè noi ve ne abbiamo già parlato di Ian McEwan, ve ne abbiamo sicuramente parlato di Espiazione, che comunque è anche il suo libro più famoso. Famoso anche per quelli a cui non piace leggere, però che hanno visto il film e quindi è ben riconoscibile. E in quel libro, per esempio, sta esplorando una strana situazione in cui una bambina si immagina di aver visto una scena di cioè sta pensando di proteggere sua sorella contro un potenziale stupratore mentre sta rovinando la storia d'amore appena nascente di due persone che si amano tantissimo, di cui ne consegue una separazione e poi anche la tragedia della Seconda Guerra Mondiale che fa la sua parte. E il modo in cui questa espiazione, che è proprio il titolo del libro, avviene o c'è, è proprio sorprendente. E per chi non ha visto il film e non ha nemmeno letto il libro, non ve lo dico, leggetevelo perché vale la pena. Un altro libro di cui ve ne abbiamo già parlato è Solar, che è anche quello cioè, completamente diverso. Cioè, però. È completamente diverso perché si tratta di cambiamento climatico, però dal punto di vista di uno scienziato che è proprio è uno stronzo. Quando ci vuole. Sì, quando ci vuole, però è un francesismo, esatto. È un bastardo comunque. Anche questo è un altro francesismo, questa sera parliamo francese. Scusatemi, qual è un'espressione che c'è? È una persona al di sopra delle righe e anche al di sotto delle righe, ma in ogni caso non sta mai nelle righe. Non sta mai nelle righe e che si occupa soltanto comincia ad occuparsi di energie rinnovabili rinnovabili soltanto nel momento in cui vede il guadagno e anzi anche a costo di alcuni crimini di cui si tratta di un piccolo uomo con un dote di intelligenza specifica ma e un ego che sta oscurando il sole per cui... cioè... un ego alto, elevato, sì, in fin dei conti un piccolo uomo, però il piccolo uomo di fronte, anzi tirando un grande tema, ed anche questo è una tematica poco esplorata e molto interessante, che di nuovo quindi vi raccomando di leggere questa storia, anche perché cioè avevo anche letto una recensione della New Scientist sul sì. libro, e i scienziati dicono che la scienza dentro il libro è perfettamente esatta, E anzi ci sono dentro alcune intuizioni che in quel momento c'erano degli scienziati che stavano lavorando su alcune di quelle tematiche che Ian McEwan così menziona nel suo libro en passant, e quindi, quindi dicevano beh, se continua così noi saremo senza ci lavoro licenziano, fa tutto gli scrittori, esatto. E quindi anche questo è carino, e il libro è bellissimo, almeno a me è piaciuto, sicuramente non piace a tutti, ma mi è piaciuto. Adesso invece... Per esempio a me non è piaciuto. Non lo so, tu facevi fatica con il libro, ma magari c'era anche la barriera linguistica, perché dato che comunque hai provato di leggerlo in inglese... Ma non credo che fosse la barriera linguistica, anche se è scritto in un inglese abbastanza, sì. Anzi, direi che è scritto in un inglese forbito, quindi insomma ci sono un sacco di termini nuovi che insomma si trovano raramente, però non è tanto l'inglese, è proprio credo sia la pesantezza del personaggio, questo personaggio insomma diventa insopportabile, sì, un po' io non riuscivo più a sopportare, ma perché devo leggere una cosa insopportabile, sono tanti libri al mondo, lui è bravo, leggerò qualche altro libro suo. Sì, effettivamente, cioè, per esempio, mentre tanta gente ha riso sul personaggio, cioè ha colto il suo lato sarcastico, cioè è sarcastico come personaggio, ironico. Non sarcastico come rappresentato, neanche io ci ho riduto, cioè neanche io ci ho riso. Anch'io l'ho trovato un po' odioso, insopportabile. Però stasera non siamo qua nemmeno per parlare di Solar. Vi ho soltanto menzionato che cosa avevamo menzionato fino adesso. Cioè, hai ricordato che cosa avevi menzionato, quindi praticamente il librango deve ancora partire. Esatto. Ma allora adesso lo facciamo partire. Sì, ma se avete proprio voglia, leggetevi Solar. Farvi capire che Ian McEwan è un vecchio amico di Librangolo e ne abbiamo parlato già e magari è stato già tanto tempo fa, quindi ho colto l'occasione di ricordarvi ancora due libri, due chicche. Un revival. Bene, allora adesso, revival. Signore e signori, amici in ascolto, finalmente arriviamo al momento tanto atteso di Librangolo. E adesso ve lo presentiamo. Librangolo! Oddio, che pressione! Allora, si tratta di un altro libro di Ian McEwan che si intitola Sabato e che comunque non è una delle sue fatiche recenti, ma che è capitato fra le mie mani recentemente. Il titolo è Sabato e anche questo è diverso da tutto il resto che io avevo letto di lui e mi ha affascinato anche questo. Si tratta del racconto di una sola giornata, di un sabato, nella vita di un chirurgo che si chiama Henry Perron. Ma come si chiama non è molto importante. Quello che è importante è che è piuttosto che durante questo sabato succedono delle cose impreviste. Cioè, questo neurochirurgo sembra avere proprio la vita perfetta, cioè ha una moglie bellissima che ama da una vita, stanno insieme, hanno due figli fantastici, uno musicista, l'altra poeta, che stanno per venire ad una visita quella sera, è un neurochirurgo proprio fantastico che è molto apprezzato, ha una manualità particolare e quindi sua moglie anche lei è professionalmente attiva, brava, avvocata, cioè sembra una vita proprio da perfetta, diciamo che, che le cose sono al loro posto e tuttavia durante questo sabato quello che succede è che il personaggio viene in riscontro con qualcosa di molto meno perfetto di lui, che und was ist das succede che fa un incidente con un gruppo di ragazzi, un incidente lieve con la macchina, con un gruppo di ragazzi che però fanno parte della malavita spicciola, ma comunque malavita. E per un momento, cioè, rischia di essere addirittura picchiato, però lui con la sua sapienza di neurochirurgia riesce a scoprire qualcosa su uno dei personaggi che lo rende inaffidabile negli occhi degli altri, ma questo ne consegue anche una... come si dice... Difficile dire qualcosa. Allora, quando qualcuno è abbassato negli occhi degli altri, scusate un attimo, il mio italiano. La fiducia, la stima, sì, viene sminuito negli altri. Sì, vabbè, non è questo che voleva, comunque ne consegue della rabbia da parte di quest'altro personaggio che si sente sminuito agli occhi degli altri suoi compagni, e questo incidente sembra di sparire, ma poi ritorna la sera, quando già tutta la famiglia è riunita, e torna come una minaccia per la famiglia. E mentre uno legge il libro sente questa tensione, no, che piano piano si sta costruendo, cioè tu in ogni momento ti stai aspettando che qualcosa succeda, perché uno, anche perché la vita del personaggio è troppo semplice, però poi non avviene mai nei momenti in cui ti aspetti tu. Cioè, quando già ti stai dicendo, ok, vabbè, allora tutto in ordine, questo veramente è stato soltanto per far riflettere i personaggi su alcune cose, no, e poi torna. E anche le vicende che succedono dopo, e comunque alla fine finisce sotto un treno, sotto i ferri del neurochirurgo. Ah, cioè l'uomo sminuito finisce sotto, sì, i ferri alla chirurgo. Fine, non ve lo dico come, leggetevi il libro. E in quel momento si pone anche la questione della vendetta o non vendetta, cioè nel senso che comunque questa persona ha cercato di far male alla sua famiglia, alla fine per quasi miracolo non ce l'ha fatta, e lui deve decidere se salvargli la vita, e anzi deve anche riflettere anche sul fatto, ma che tipo di vita do a questo uomo, perché comunque, dato che quello è un uomo malato di per sé, c'è anche la riflessione, ok, vabbè, lo ridiamo alla vita, ma la sua vita comunque sarà rovinata entro 2 anni più o meno, perché ha una malattia che quando prende il sopravvento, la sua vita crollerà completamente. Quindi, ok, quindi da un lato c'è la vendetta, dall'altro c'è però anche la qualità della vita, e quindi l'accanimento terapeutico si vede, sì, sullo sfondo, no, l'accanimento terapeutico. No, diciamo che il personaggio principale, cioè il chirurgo, è sufficientemente complesso per avere questa capacità di fare del bene, cioè avere questa capacità di non cadere nel tranello di fare le cose scontate. Quindi non fa le cose scontate, però ci sono altre cose che magari non ti verrebbero in mente, che a lui vengono in mente, e il libro lascia alcune cose completamente aperte, cioè tu sai che lui ha deciso qualcosa, ma non sai che cosa ha deciso esattamente. Quindi la suspense non è solo sugli eventi, rimane, ma anche sui pensieri del neurochirurgo. Sì, ma per me il neurochirurgo comunque si salva tantissimo da questa storia, nel senso che si salva da questa storia perché non cade nella meschineria, non cade nei tranelli che proprio questa storia costruita dallo scrittore lo mette dentro queste situazioni, e lui non cade nel tranello. È come se si salvasse è difficile dire o spiegare che cosa voglio dire senza rivelare troppo del libro, e io mi accanisco comunque di non voler rivelare troppo, insomma, perché non voglio... Dici e non dici, perché vuoi tenere anche tu la suspense. Certo, voglio tenere il suspense, voglio che possiate leggere il libro con una mente relativamente aperta, perché sono sicura che già con quello che vi ho detto io ho rovinato alcuni dei momenti, diciamo, perché comunque sapete più o meno che cosa aspettarvi. Questo non lo so. A me, io per esempio, che non sapevo fino alla fine che Baxter, questo giovanotto problematico, sarebbe apparso, cioè, comunque ti dà questo ritmo in cui tu hai sempre il dubbio, cioè ci dici, no, adesso succede, no, adesso succede, cioè, se tu non sai, non conosci la storia, noti magari ancora di più la maestria dello scrittore nel costruire questa situazione che deve esplodere in un modo o l'altro, da qualche parte, o deve implodere, ma allora deve implodere, cioè qualcosa deve fare, esplodere o implodere deve farlo. Non lo so, perché a me, per esempio, il fatto che conoscere perfettamente la trama di un libro non mi sconvolge. Anzi, a volte quando la trama è troppo forte, nel senso che è avvincente, mi stanco, voglio leggere la fine per dire bene, ok, non mi interessa sapere, scoprire da solo e fare le prove di intelligenza come stesso, vediamo se sei capace di capire chi è l'assassino in tempo, mi interessa vedere come si sviluppa la storia, quindi a volte leggo la fine tanto per dire beh, ok, no, andiamo a finire così, ma vediamo come va a finire così. A me interessa molto il come va a finire, non cioè come si arriva alla fine e non tanto alla fine in sé. Sì, mi ricordo di anche altri che hanno un approccio simile alla lettura della tua, però non, cioè, nella mia opinione ci sono alcuni libri dove sapendo cosa succederà, questo non è neanche la fine, capisci? Cioè, praticamente vi ho dato degli assaggi di vari punti della storia e comunque non sapendo tu hai un'altra esperienza di lettura rispetto a quando sai. Perché se tu non sai, allora la storia ha tutta la capacità di coglierti di sorpresa, mentre se io ti ho raccontato tutto o tu hai letto la fine, questa sorpresa è partita, cioè magari ti volevo proprio sorprendere e non ce la faccio più perché tu sai che cosa succederà. Sì, credo che sia personale. Sicuramente, perché magari qualcuno si sorprende, magari mi sorprendo troppo, cioè o sorprendo troppo, insomma, non troppo avvincente, anche perché poi se veramente uno rende un testo così avvincente e quindi crea l'effetto sorpresa, eccetera, poi io sono uno di quelli che torna indietro a vedere, stiamo a vedere se quello che tu dici sta in piedi. E insomma, più di qualche volta, rileggendo alcune pagine, ci sono dei pezzi in cui che non stanno in piedi. Nel senso che l'assassino non poteva essere quello, deve essere per forza, no, manco un pezzo. Oppure ti do indizi, ce ne servono 10 per capire chi è, te ne do 3. E vabbè, grazie. Quindi, insomma, a volte è una fiction, quindi mi piace capire se ti porta, dandoti degli indizi, quindi giocando con te, o semplicemente solo avvincente e in realtà non ti sta dicendo niente. Insomma, questo a me è un po'... cioè, mi infastidisce un attimo, insomma, mi nervosisce un po', quindi preferisco sapere alla fine, vedere come sviluppa. È una questione caratteriale, credo, no? Sicuramente potremmo anche parlare dei vari modi per leggere, di leggere, che sicuramente non sarebbe interessante, però mi sa che noi qua siamo assolutamente agli sgoccioli. Beh, non sta piovendo, in che senso gli sgoccioli? Nel senso che ci stiamo mangiando gli ultimi minuti, anzi l'ultimo minuto e ultimi secondi di Bruxellando di stasera. Ops, no, non mi dire così, è già chiuso, è già finito. Sì, è già finito, quindi io non posso fare altro che raccomandarvi di leggere IMQN anche voi, perché proprio vale la pena, e secondo me uno dei grandi della letteratura contemporanea, di eventualmente fare un giro nella Brussels Short Film Festival, che c'è e vale la pena vederlo, che c'è, sempre vale la pena vederlo, andate a vedere.